La vita è come una puntata di un italiano in cui tutto deve andare bene, ognuno recita il suo copione, intrattiene persone per bene, solo apparenza e ipocrisia, finte sorprese, il regista saprà scegliere le migliori riprese. La trasmissione momentaneamente interrotta, ci sono dei problemi. La macchina delle certezze si è rotta, ora la precarietà non ha più freni. La nostra vita è solo immagine, solo illusione. Tiriamo avanti credendo alla finzione. Ascoltiamo consigli per gli acquisti per essere normali. Per l'allegria abbiamo pronti i medicinali. La trasmissione è momentaneamente interrotta. Ci sono dei problemi. La macchina della felicità si è rotta. Ora siamo alla deriva senza remi. Dobbiamo applaudire quando ora e poi stare buoni al nostro posto, piangere a comando e imparare che ogni cosa ha un costo. In fondo siamo solo pedine, siamo un ingranaggio di un sistema che ci spaccia banalità come un miraggio. La trasmissione è momentaneamente interrotta, ci sono dei problemi. La macchina dell'adattabilità si è rotta, ora il disagio non lo trattieni. Ogni giorno c'è una strage familiare, i migliori amici ci possono tradire, accoltellare, le persone a cui vogliamo bene ci possono nominare, ma noi ci potremmo fare intervistare. La trasmissione è momentaneamente interrotta, ci sono dei problemi. La macchina delle promesse si è rotta e ora è la realtà che temi. La trasmissione è momentaneamente interrotta, ci sono dei problemi. La macchina della falsità si è rotta e c'è chi non segue più gli schemi.